23 marzo 1944. Roma. Splendida mattina di primavera. Ore 9. Chiesa di Santa Maria della Pietà in Piazza Colonna. Padre Redento Zannoni dà inizio al sacro rito. Il 25esimo anniversario del fascismo può cominciare, alla presenza di tutte le autorità fedeli al Duce rimaste nella capitale. 23 marzo 1944, Roma, splendida mattina di primavera. Ore 12, via Marco Aurelio 42. Un carretto della Nettezza Urbana del Comune comincia il suo viaggio spinto da un finto netturbino. Rosario Bentivegna. Dentro questo carretto ci sono 18 kg di tritolo. Via Marco Aurelio, via Claudia, Colosseo, via dei Fori Imperiali, via Cavour, piazza Esquilino, via De Pretis, via delle Quattro Fontane. Questo è il lungo e faticoso tragitto che Bentivegna deve percorrere per raggiungere via Rasella, la meta che i partigiani si sono prefissati. Via Rasella, altezza Palazzo Tittoni, prima residenza di Mussolini, quando, dopo la marcia su Roma, divenne capo del governo. Qui, ogni giorno, passa una colonna di SS sudtirolesi che torna in caserma dopo aver trascorso la mattina al poligono di tiro. Via Rasella è il posto ideale per far esplodere la bomba, perché qui la colonna nazista è costretta a rallentare. Oggi però tarda ad arrivare. . 23 marzo 1944, Roma, splendido pomeriggio di sole. Ore 14. A meno di 200 metri da via Rasella, le meste celebrazioni dei 25 anni del fascismo proseguono. Via Veneto, imponente palazzo delle corporazioni. Il segretario federale Pizzirani è il presentatore della festa. Molto sopra le righe, esaltato, raggiunge il suo orgasmo quando ordina il saluto al Duce, che non c'è. Ore 14.30. Pizzirani invita a parlare Carlo Borsani, grande invalido di guerra. Ma chi è Carlo Borsani? Carlo Borsani è nato il 29 agosto del 17 e fu allevato dalla povertà e dalla tristezza. Suo padre, un metallurgico vecchio socialista, aveva trovato la morte in un orrendo agguato della macchina, e se egli poté studiare fu grazie alle fatiche e alle privazioni della madre, per evitare al figlio di finire nell'officina, tra gli ingranaggi che le avevano stritolato il marito. Così la guerra lo trovò studente di lettere a Milano, quando il suo bel reggimento, del quale aveva composto l'inno, passò fra la neve e il fango dell'Albania. Egli aveva fatto del suo plotone un pugno di arditi. Il 9 marzo del 41 è con i suoi volontari all'assalto della terribile quota 1252. Ferito una prima volta, prosegue finché una granata di mortaio gli scoperchia al cranio. E creduto morto, stanno per avvolgerlo nel telo da tenda, quando muove una mano e lo portano indietro, senza speranza. E invece sopravviverà, e un giorno sarà udito cantare e nessuno potrà credere che la voce sia uscita da quello strazio. Ore 14.40. La colonna SS non transita ancora e intanto Borsani pronuncia il suo discorso. Camerati di Roma Eterna, spesse volte nella storia della vostra città accadde che la sfortuna delle armi o l'interno dissidio procurassero tali calamità e così gravi pericoli da far apparire temeraria anche la speranza di salvamento. Eppure quella stessa storia dimostra che i padri non furono mai così grandi nella gloria come lo furono nella sventura, appunto perché non disperarono mai né dell'avvenire né della patria. Tutta l'Italia è qui, non l'Italia fatta per servire sempre vincitrice e vinta, ma l'Italia che il dolore e l'umiliazione hanno purificata, riconciliata con la gloria passata, ravvicinata al cielo di Dio e degli eroi, riconsacrata alla dignità e all'avvenire. E il salone esplode in fragorose ovazioni, e viene detto che si tratta di un'affermazione di fede nel Duce, nel Führer e nelle risorgenti forze armate italiane. 8 milioni di baionette, che in quel momento sono però ridotte a 170.000 circa soldati male addestrati e demoralizzati. Ma proprio in quel momento transita la colonna di SS per via Rasella. L'esplosione provoca la morte di 32 soldati, molti feriti, anche gravi. Uno di essi morirà nella notte. Muore anche un bambino, Piero Zuccheretti, sfuggito al controllo di tutti i partigiani che presidiavano le vie laterali. I soldati superstiti cominciano a sparare all'impazzata, soprattutto alle finestre delle case. Radunano tutti gli abitanti di Via Rasella in strada e li mettono su due file sui marciapiedi. Da ora e fino alla sera dell'indomani, a Roma, scoppia l'inferno. 200 persone tra uomini, donne e bambini sono in strada con le braccia sulla testa. Morti, feriti, corpi maciullati, gemiti, sparatorie, pozze di sangue. Il tutto si mischia ad intonaco, vetri frantumati, porte divelte, mobili fracassati, negozi distrutti. Tutto questo in Via Rasella. E tutti assistono attoniti alla litigata tra il console Mollhausen e il generale Meltzer, che è totalmente fuori di sé e che vuole uccidere tutti quanti, e Mollhausen cerca di portarlo a ragione. La discussione proseguì per parecchio. Fu chiamato in causa Kesselring, che in quel momento si trovava a Rapallo, in Liguria, ed era il comandante in capo delle forze armate in Italia. Addirittura fu chiamato anche lo stesso Hitler. Alla fine si decise 10 italiani per ogni tedesco ucciso, e la macchina nazifascista si mise in moto. 270 persone doveva trovarle la polizia tedesca, 50 la questura italiana, per opera di Pietro Caruso, il questore. Totale 320 persone. Nella notte muore però un altro nazista. Allora i giustiziati dovevano essere 330. Forse la fretta, forse l'eccesso di zelo, il totale delle persone giustiziate alla fine risultò in un numero di 335. La rapidità era essenziale per due motivi. L'ordine del Führer imponeva che le esecuzioni dovessero terminare entro le 24 ore per far vedere agli abitanti romani che i nazisti avevano il pieno controllo della città. E più importante era però il timore che se la cittadinanza di Roma avesse appreso che un eccidio stava per essere perpetrato nel suo territorio, nessuno avrebbe potuto prevedere l'intensità delle sue reazioni. I partigiani avrebbero potuto organizzare un attacco fulmineo, l'intera città avrebbe potuto insorgere. Per ragioni di sicurezza, le esecuzioni dovevano essere tenute segrete finché non fossero state portate a termine. Das Denkmal ist auch möglich. A dirigere i lavori, dopo uno scaricabarile imbarazzante, infatti nessuno voleva fare questo sporco lavoro. Ormai la guerra stava per finire e questo era un vero e proprio eccidio, non era un atto di guerra, era proprio un crimine di guerra. Alla fine fu chiamato Herbert Kappler, tenente colonnello, capo delle SD, il servizio di sicurezza, rappresentante della Gestapo in Italia, che non si rifiutò. E alle ore 20 dello stesso giorno cominciò la sua opera. E il suo lavoro dall'ufficio di Via Tasso lo svolse molto bene. Esattamente 24 ore dopo, il 335esimo veniva giustiziato. Durezza, precisione, meticolosità, meccanicità, impeccabile eleganza, impassibilità. E questi sono tratti apparentemente inseparabili dalla figura del tedesco nazista, come Herbert Kappler, che nasce a Stoccarda nel 1907 da una famiglia medio borghese. Entra nel Partito Nazionalsocialista nel 1931 e nelle SS nel 1933. Si iscrive al partito perché vedeva nel programma politico di Hitler la soluzione pratica della miseria che aveva pervaso tutte le maestranze tedesche. Col governo socialdemocratico potevo scegliere tra due opposizioni, i comunisti e i nazisti. So dove sono andato. Si trova a Roma dal 39 e segue l'organizzazione della polizia italiana. Fu questo studio e il frequente contatto con funzionari italiani che fece sorgere in me più forte l'amore per il paese che mi ospitava e che io a un certo momento considerai la mia nuova patria. Dopo l'8 settembre del 43 dirige la polizia politica e collabora alla liberazione di Mussolini. Nel maggio del 1945 mi sono consegnato agli inglesi. Kappler arriva poco dopo l'inizio del massacro alle Ardeatine in uno stato di eccitazione. I camion dovevano giungere in modo che non dovessero attendere fuori. E non ricordo bene quando cominciarono le esecuzioni, ma posso affermare che i primi ad essere fucilati furono quelli della prigione di Via Tasso. Le esecuzioni cominciarono esattamente 24 ore dopo l'esplosione della bomba in Via Rasella e terminarono verso le ore 20. L'ordine delle esecuzioni non è indifferente. Chi muore per primo almeno non deve aspettare, guardare, sentire. E noi speravamo perlomeno che fosse stato il primo, e già sarebbe stata una consolazione. Penso solo ai momenti che ha passato quando è stato fucilato, che ha visto, perché è stato fucilato per ultimo, uno degli ultimi, l'ultima ondata. Mio padre non me lo sogno, però penso che ha visto sta marea dei morti, tutto sangue, poi in ginocchio, che te sparano. Mi fu detto che in caso di esecuzione le vittime avrebbero cercato di parlare il più possibile con il cappellano per un conforto religioso. Così ho deciso di non chiamare nessun religioso per evitare di doverlo allontanare dopo pochi secondi. Vi hanno ucciso qui dentro, ammucchiati in una di queste fosse, coperti di terra. Le grotte sono tanto buie e profonde. Dove siete? Dove v'hanno lasciato? Se ne sono andati e non vi hanno neppure guardato. La terra fatta di sangue e i loro occhi di pietra. Alle ore 14 del 24 marzo 1944, il primo carico di uomini finalmente viene trasportato alle cave ardeatine. È stato molto difficile trovare il sito idoneo per compiere questo lavoro, in fretta, senza essere visti, ma in uno spazio piuttosto accogliente e soprattutto abbandonato. Da Via Tasso, dove c'è il mio ufficio, in macchina col mio autista andando verso sud, dopo la via Appia, percorriamo una strada imperiale, la via Ardeatina, 24 miglia romane dall'antica città portuale di Ardea. A un certo punto, sulla destra, si apre uno spazio, le cave ardeatine. Ed eccole, le gallerie, un labirinto di gallerie composto da passaggi intersecanti, lunghi da 50-100 metri, larghi 3 metri, alti circa 5 metri, scavate 40 anni prima per poter utilizzare la pozzolana, una polvere sabbiosa di origine vulcanica, che serviva per preparare il cemento per la costruzione dei nuovi quartieri fascisti, tipo i Parioli. Ora, le cave, essendo esaurite, erano abbandonate. Per evitare possibili fughe da parte dei giustiziati, si fanno saltare in aria gallerie e uscite. Ma i conti che fanno i nazisti sono sbagliati. Infatti, per poter stipare 335 persone ci vuole molto più spazio di quello che in effetti viene lasciato a disposizione. Comunque, fa lo stesso e il lavoro può cominciare. Thank you. I 33 nazisti uccisi dai partigiani erano altoatesini, cioè italiani, che vestivano divise tedesche e occupavano il suolo italiano, perseguitando altri italiani. Alcuni altoatesini, quindi italiani, fanno parte dei massacratori delle fosse ardeatine. Tra i massacrati ci sono dei tedeschi. Il martirio si compie a Roma e i romani pagano il prezzo più elevato in vittime, ma tutte le regioni italiane hanno almeno un martire da ricordare. Alle fosse ardeatine, che stanno a sud di Roma, hanno portato 335 persone, uomini, solo uomini, di età compresa tra i 15 e i 74 anni, e a gruppi di 5, con le mani legate dietro la schiena, li hanno fatti entrare nelle cave, buie, flebilmente illuminate dal fuoco di alcune candele, li hanno fatti inginocchiare e li hanno uccisi con un colpo di pistola alla nuca. Questo rito è stato ripetuto per 67 volte, dalle ore 15 alle ore 20 del 24 marzo 1944 a Roma, una media di 13 gruppi di 5 persone ogni ora, un morto ogni 53 secondi, per 5 ore. C'è poco spazio, c'è poco tempo, c'è poca luce. I condannati quindi vengono fatti salire sui cadaveri di chi li ha preceduti. Anche i giustizieri salgono in equilibrio precario. Al buio, di fretta, sparano alla nuca. A volte sbagliano, feriscono e sparano 3-4 volte in testa, ma a volte non basta per uccidere. Ma ecco che arrivano altri 5, salgono, si inginocchiano, salgono altri giustizieri e con le loro pistole cariche sparano. A lavoro ultimato i nazisti fanno saltare in aria tutto quanto, per cancellare il lavoro da loro compiuto, per cancellare i morti. Ma i morti non si cancellano. Il grande errore dei nazifascisti è stato quello di sotterrare i morti, non di seppellirli. E fin da subito questo è stato un lutto difficile, senza certezza sul momento della morte, sul luogo, sulla sua stessa esistenza. In questa assenza il dolore prende forme che non cambieranno più. Perciò la sepoltura comincia col gesto inverso, quello di dissotterrare i morti per poterli riconoscere e seppellire davvero. Solo allora le cave ardeatine potranno cambiare nome e chiamarsi fosse, da deposito di materiale a luogo di sepoltura. Everything we can describe at all could also be otherwise. Bare. Ogni bara ha la sua foto e le foto accomunano tutti, ricchi e poveri. Più di 60 anni fa c'erano molte meno occasioni di fare foto e così, soprattutto per i parenti dei contadini, dei poveri e delle classi meno abbienti, cercavano di portare alle ardeatine quello che avevano tra le foto del loro congiunto morto. E quindi foto di matrimonio, anche in costume da bagno o di scuola, magari tagliando le parti meno belle. E così finalmente io do un volto a queste persone che mi sembra di conoscere così bene e faccio un giro, li guardo tutti, li saluto tutti e li vado a cercare uno ad uno e mi soffermo su Dardano, su Sabato, su Aladino, Ottorino, Pilo, che nomi strani. che nomi antichi. Il posto è volutamente opprimente, cupo, importante, vero. E alle Ardeatine, dalla stazione Termini, una volta io ci andai a piedi, così come fecero le donne più volte alla ricerca del corpo del proprio marito, del proprio fratello, del proprio padre. Nel 1949 il comune mise a disposizione un servizio di autobus, ma solo la domenica. E così queste donne continuarono ad andare, portando appresso a loro i figli. E i figli che giocavano alle Ardeatine, a nascondarella, e i bimbi che avevano visto queste bare aperte per il riconoscimento, tutte messe precise in riga, la puzza di morte e i fiori. I fiori che marcivano immediatamente. E nonostante siano passati così tanti anni, i bimbi di allora, ancora oggi, quando sentono un fiore che puzza di marcio, ecco, il ricordo va subito lì, al loro papà, alle Ardeatine. E queste donne che non si sono più risposate, e questi bambini arrabbiati coi loro padri perché hanno preferito la lotta a loro. E questo è un lutto strano che non se lo sono potute godere le mogli, le figlie, perché bisognava lavorare, non ci si poteva fermare. E le donne fino a quegli anni non avevano mai lavorato, dovevano far figli come conigli. E poi ci pensava il Duce a farli morire. E così molte di queste donne finalmente hanno pianto il loro marito o il loro padre dopo anni e anni, quando finalmente si sono potute fermare e pensare a quello che non è potuto essere. If a question can be put at all, then it can also be answered. Wenn sich eine Frage überhaupt stellen lässt, so kann sie auch beantwortet werden. Sono le vie romane dedicate ai martiri, quasi tutte al di là del raccordo anulare, vie messe recentemente durante il centro-sinistra al governo della città, e 16 sono dedicate a militari, nessuna ad ebrei. E gli ebrei sono 75 e sono stati portati a morire alle Ardeatine semplicemente perché erano ebrei, e questa era la linea di difesa di Kapler durante il processo svoltosi a Roma, ma da giudici inglesi. E questi nomi sono nomi sconosciuti, infatti gli abitanti delle zone con questi nomi non sanno chi siano. Pereira chi? Quello di sostiene Pereira forse. Azzarita è il capolinea dell'autobus. Adesso è giunto il momento che io parli di Attilio Ascarelli. Attilio Ascarelli è appartenente ad un'insigne famiglia ebrea. Si laurea in medicina e chirurgia all'inizio del Novecento. Nell'estate del 44 guida l'equipe medica che ha il compito di esumare e identificare le salme delle 335 vittime delle fosse Ardeatine, tra le quali si trovano due suoi parenti, i fratelli Milano. Fu infaticabile nella pietosa opera cui fu preposto, un compito dalla immane difficoltà. Le gallerie delle cave erano state fatte saltare, erano passati alcuni mesi, i corpi erano tutti ammassati uno sull'altro perché come dicevo prima le vittime prima di essere ammazzate dovevano salire sui loro compagni già giustiziati per la mancanza di spazio. È una specie di patibolo umano. Il caldo, i topi, i pochi oggetti di riconoscimento che avevano addosso i martiri resero il compito del professor Ascarelli al limite delle possibilità umane, ma solo alcuni di loro sono rimasti senza nome. E Ascarelli cerca di fare dei confronti con altre tragedie simili, come ad esempio l'eccidio di Katyn, e dall'esperienza passata cerca di trarre la forza e evitare facili errori nelle identificazioni. Sacchetto numero 1, indumenti. Sacchetto numero 2, oggetti. Sacchetto numero 3, i valori. Sacchetto numero 4, gli scritti. Sacchetto numero 5, i denari. Sacchetto numero 6, le scarpe. Tre gruppi di cadaveri. Età, 19 gruppi. Statura, 5 gruppi. Professione, 42 gruppi. Moltissime persone aiutarono Ascarelli. Medici, infermieri e moltissimi volontari. A tutte queste persone fu dato 5.834 razioni di pane e minestra, 5.627 razioni di vino, 5.800 razioni di sigarette. Ci furono in tutto 1.200 giorni lavorativi, 2.000 metri cubi di terra tolti a mano, perché non tutte le mine messe dai nazisti esplosero e quindi c'era sempre paura di esplosioni e la paura di crolli. Dare un'esatta idea e una descrizione rappresentativa di come si presentavano questi due carnai umani è cosa che io non so esprimere con adeguate parole. All'inizio di luglio si svolge il primo sopralluogo. I corpi sono lì sotto da 3 mesi. 2 mucchi di cadaveri, 5 metri di lunghezza, 3 metri di larghezza, 1,5 metri di altezza, una puzza inaudita. Inoltrandosi all'interno delle lugubri gallerie, un senso di freddo invadeva il visitatore, oppresso altresì da un fetore ammorbante, al quale era difficile resistere. Fetore che dava la nausea e stimolava il vomito. Tra le misere sparse membra brulicavano insetti, miriade di larve si nutrivano delle maciullate carni, circolavano grossi e numerosi topi, che fuoriuscivano di tra le insepolte incustodite spoglie e dai frantumati crani. Erano le salme tra loro strette nella stessa tomba che ne accumulò il sacrificio e freddamente attendevano le mani pietose che ne ricomponessero al fine le disgiunte membra, che le restituissero al pianto dei congiunti e alla gloria del patito martirio. Al tavolo anatomico le singole salme presentavano nella gran maggioranza una caratteristica trasformazione tanatologica, conosciuta sotto il nome di adipocera, cioè uno speciale stato di saponificazione dei tegumenti apparentemente ridotti in masse lardacee, untuose al tatto, di colorito grigiastro e riflessi perlacei. In altri cadaveri si osservò una mummificazione più o meno avanzata, accompagnata da comuni processi di putrefazione. Il giorno più brutto fu il giorno del riconoscimento, quando andarono lì e uscì la melma. Mi stanno venendo i brividi a pensarci. Chissà mia madre quanto avrà patito. Chi uccisero a marzo lo ritrovarono a luglio, col caldo. Si erano tutti fracicati, saponificati. Ste mamme, ste figlie, che si vedevano sti cadaveri, uscì fuori. La pozzolana aveva mangiato la carne ed era rimasta la pelle e le ossa. Mummificati, saponificati. Una persona che si è rivista un fratello, un padre, così. I martiri sono persone diversissime tra loro, con ideali diversissimi, con esperienze di vita diversissime, di estrazioni sociali diversissime. Ma sono stati ammazzati tutti insieme in queste cave, perché combattevano tutti quanti il nazifascismo. Militari, massoni, ebrei, comunisti, cattolici, atei, vecchi, ragazzini, un prete, professori, dottori, monarchici. Tutti insieme alle Ardeatine. Martiri come Roberto Lordi, generale di brigata, aerea, in congedo, 49 anni, nato a Napoli l'11 aprile del 1894, da Gregorio e da Rosina D'Antona, sposato con Livia Boglione, ebbe un figlio, studiò al collegio dell'Annunziatella. Durante la Prima Guerra Mondiale combatté come ufficiale dell'artiglieria di montagna, distinguendosi nelle battaglie dell'Isonzo e del Piave e guadagnando diverse decorazioni al valor militare. Laureatosi in ingegneria aeronautica al Politecnico di Torino, dal 23 prestò servizio in Libia come comandante dei bombardieri veloci dello Stormo di Ferro. Nel 27 realizzò il primo lancio collettivo di paracadutisti. E l'anno dopo fu tra i protagonisti del raid Roma-Torino-Londra. Primo nel mondo sorvolò in aereo il massiccio del Tibesti, identificando la misteriosa oasi di Kufra. Nel 33 fu inviato in Cina, a capo di una missione militare. Qui conobbe il generale Chiang Kai-shek, conquistando la sua fiducia, tanto da diventare capo di stato maggiore dell'aeronautica cinese e ottenere una serie di commesse per l'Italia che però vennero gestite in maniera superficiale. la relazione negativa che spedì a Mussolini gli attirò l'avversione delle alte sfere militari, che nel 1935 ne chiesero il rimpatrio e poi il collocamento a riposo. Per sopravvivere fu assunto insieme all'amico Sabato Martelli Castaldi al polverificio Stacchini di Roma. L'8 settembre del 1943 accorse a Porta San Paolo a combattere contro i tedeschi. Pur sofferente di cuore entrò nella resistenza e quando il polverificio fu requisito dai tedeschi sottrasse ingenti quantità di esplosivo per le bande partigiane della zona. Ospitò nella propria villa di Genzano ufficiali e civili ricercati dall'SS e organizzò formazioni armate sui Monti Prenestini ed intorno ad Alatri, in contatto radio con le truppe alleate. Quando, il 7 gennaio del 1944, il proprietario dello stabilimento fu arrestato, insieme a Martelli si presentò spontaneamente al comando tedesco. Rinchiuso nel carcere di Via Tasso, nella cella numero 1, e torturato più volte, non rivelò il nome dei compagni di lotta e fu fucilato il 24 marzo alle Fosse Ardeatine. E prima che la scarica lo abbattesse, gridò «Viva l'Italia!». Martiri come Sabato Martelli Castaldi, generale di brigata aerea in congedo di 46 anni, nato a Cava dei Tirreni il 18 agosto 1896 da Sabato Castaldi e da Argia Martelli. Sposato con Luisa Barbiani, aveva tre figli, Giorgio, Vittoria e Sabatino. Partito volontario per la Prima Guerra Mondiale, fu protagonista di più di 100 voli di guerra, abbattendo diversi apparecchi nemici e conquistando sul fronte una medaglia d'argento e due medaglie di bronzo al valor militare. Ebbe una carriera brillantissima. Fu uno dei piloti della crociera delle capitali europee e uno degli organizzatori delle due prime giornate dell'ALA, del carosello aereo e della seconda trasvolata oceanica. Capo di gabinetto del ministero con Italo Balbo, a 36 anni era già generale, il più giovane d'Italia. Ma nel 1934, quando presentò a Mussolini un memoriale sullo stato disastroso dell'aviazione italiana, fu posto in congedo assoluto, senza stipendio. Perseguitato dal regime, solo nel 1939 riuscì ad ottenere un impiego stabile come direttore del polverificio Stacchini. Il 9 settembre era a Porta San Paolo, insieme all'amico Roberto Lordi, con un fucile da caccia, a difendere Roma dai nazifascisti. Subito dopo entrò a far parte del fronte militare clandestino di Montezemolo, col nome di battaglia Tevere. Fornì armi ed esplosivi ai partigiani del Lazio e dell'Abruzzo. Aiutò a nascondere ebrei, ufficiali, renitenti alla leva, nella villa di Genzano dell'amico. Incitò i giovani a resistere ai bandi della Repubblica di Salò. Organizzò bande di partigiani ai castelli romani, sui Monti Prenestini e intorno ad Alatri. Trasmise rilievi di zone di installazioni militari agli alleati. Il 17 gennaio del 1944, insieme a Roberto Lordi, si consegnò ai tedeschi per ottenere il rilascio del proprietario del polverificio. Trattenuto da Kappler, fu rinchiuso nella cella numero 2 di Via Tasso per 67 giorni e torturato, ma non parlò, e anche lui fu fucilato alle Ardeatine il 24 marzo. Martiri come Gioacchino Gesmundo, professore di filosofia, 35 anni, nato a Terlizzi, provincia di Bari, il 20 novembre del 1908. Cattolico, fin da giovanissimo sentì una forte inclinazione verso il socialismo utopistico e la figura di Giuseppe Mazzini. In seguito studiò il pensiero di Marx e Lenin. Nel 28, trasferitosi a Roma, si iscrisse all'Istituto Superiore di Magistero, dove si diplomò nel 32. Insegnò prima al liceo di Formia, poi dal 35 al liceo scientifico Cavour. Il suo insegnamento, che andava oltre i programmi della scuola fascista, allargandosi anche ad argomenti proibiti come il Risorgimento o la questione meridionale, proseguiva anche fuori dalle mura scolastiche. Riceveva a casa i propri alunni, tra cui anche Pietro Ingrao, in un palazzo popolare di Porta Metronia, iniziando molti di loro alle idee del comunismo. Il 25 luglio del 43 lo trovò già in piena attività organizzativa del PC, al quale aveva aderito a inizio anno per tramite di Giovanni Roveda. Dopo l'armistizio fu a capo del movimento che riuscì ad impedire l'inizio delle lezioni da parte dei professori collaborazionisti, e la sua casa diventò un centro di lotta contro i nazifascisti, prima come redazione clandestina dell'Unità, poi come arsenale di armi per i GAP. Amico personale di Don Pietro Pappagallo, anche lui originario di Terlizzi, anche lui morto alle Ardeatine, Gesmundo era infaticabile. Era a capo del servizio di controspionaggio del PC, teneva corsi di formazione ideologica dei compagni di lotta, scriveva articoli, preparò una storia completa del comunismo, diffondeva copie dell'Unità, armato di un pennello e di un barattolo di vernice, tracciava sui muri scritte inneggianti al PC e alla Libertà. Fu arrestato dai tedeschi il 29 gennaio del 44. Pochi giorni dopo lo sbarco degli alleati ad Anzio, durante una perquisizione fattagli dalla polizia fascista mentre stava preparando un'azione di sabotaggio. Gli furono scoperti in casa due casse di chiodi a tre punte. Rinchiuso in via Tasso nella cella numero 13, torturato più volte, tentò di togliersi la vita per non parlare. Il 24 marzo fu processato dal Tribunale Militare di Guerra tedesco, condannato a morte e quello stesso giorno ucciso alle Ardeatine. Come Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, colonnello di Stato Maggiore, 42 anni, nato a Roma il 26 maggio del 1901 da Demetrio e da Luisa Dezza, sposato con Amalia De Matteis, 5 figli, Manfredi, Andrea, Lidia, Isolda e Adriana. Ufficiale degli Alpini nella guerra 15-18, al termine del conflitto entrò nel genio militare, si laureò in ingegneria civile nel 23. Volontario nel 37 in Spagna a favore di Francisco Franco, quindi combatté molti altri martiri delle fosse ardeatine che erano in Spagna a favore della Repubblica. Fu promosso tenente colonnello per merito di guerra. Nel 1940 fu chiamato al Comando Supremo e assegnato allo Stato Maggiore Generale. Nominato colonnello nel 1942, assunse le funzioni di capo scacchiere in Africa. Dopo l'arresto di Mussolini, il capo del governo Badoglio lo chiamò allo Stato Maggiore dell'Esercito. L'8 settembre il generale Calvi di Bergolo gli conferì l'incarico di capo dell'ufficio affari civili del comando di Roma Città Aperta. Il 23 settembre, quando i tedeschi circondarono il Ministero della Guerra per arrestare Calvi e i suoi collaboratori, sfuggì all'arresto ed entrò in clandestinità. Fedele al re e alla monarchia, divenne l'animatore e il capo del fronte militare clandestino, sotto il falso nome di ingegnere Giacomo Cataratto, che poi cambiò in professor Giuseppe Martini. In breve tempo mise su numerose bande militari e un servizio informazioni efficientissimo, con diramazioni nel centro e nel nord del paese. Collegato via radio con il legittimo governo del sud, teneva per suo conto i collegamenti con il CLN e forniva notizie importantissime al comando alleato. Considerato da Kappler il suo più terribile nemico, fu catturato dai tedeschi il 25 gennaio del 1944, insieme all'amico Filippo de Grenet, anche de Grenet morto alle Ardeatine, mentre usciva da una riunione con il generale Armellini. Fu rinchiuso in via Tasso per 58 giorni, più volte torturato, non rivelò i nomi dei compagni e anche lui ucciso alle Ardeatine. Martiri come Simone Simoni, generale di divisione, 63 anni. Nato a Patrica, provincia di Frosinone, il 24 dicembre del 1880 da Antonio e Rosa. Sposato con Mercedes Biscossi, aveva 4 figli, Gastone, Piera, Maria Pia, Vera. Ufficiale di carriera, prestò servizio per 35 anni nell'esercito, partecipando a tutte le campagne militari italiane dalla Libia in poi, conseguendo numerose decorazioni e scalando tutti i gradini della scala gerarchica fino al grado di generale. Durante la Prima Guerra Mondiale si distinse alla battaglia di Caporetto, dove riuscì a tenere testa per 2 giorni all'avanzata nemica, al comando di un piccolo gruppo di uomini. In quell'occasione fu catturato dai tedeschi e relegato in un campo di prigionia in Germania per 2 anni. Nel 1932 fu collocato nella riserva per un'infermità dovuta a una ferita riportata in guerra. Grande invalido di guerra, l'8 settembre del 1943 fu tra i più convinti sostenitori della necessità di difendere la capitale dai nazisti e per questo motivo subì un attentato da parte dei fascisti. Entrato a far parte del fronte militare clandestino di Montezemolo, fece del proprio ufficio e della propria casa centri di azione cospirativa, ai quali facevano capo, oltre ai generali Fenulli e Cadorna, numerosi ufficiali dell'esercito e uomini politici quali Lussu, Bonomi e Siglienti. Nascose ed aiutò ufficiali e soldati e svolse numerose missioni. Arrestato dall'SS il 22 gennaio del 1944, nella sua abitazione, fu rinchiuso nel carcere di Via Tasso, nella cella numero 12, torturato più volte. Per estorgergli una confessione fu anche condotto davanti al plotone d'esecuzione. Senza risultato, anche lui ucciso alle Ardeatine. martiri come Don Pietro Pappagallo. Il prete, nato a Terlizzi, provincia di Bari, il 28 giugno 1888, appartenente al Comitato di Soccorso Cattolici Comunisti, ha assistito e aiutato tanti perseguitati, tenuto d'occhio per gli aiuti forniti ai GAP romani, e viene arrestato e portato in via Tasso il 29 gennaio del 44. E la sua figura, insieme a quella di Don Giuseppe Morosini, viene ricordata da Rossellini nel film Roma città aperta, in una magnifica interpretazione di Aldo Fabrizi. E quindi viene portato al massacro delle Ardiatine. E Pietro, Don Pietro, riesce a confortare e a sostenere i morituri, proprio perché Kappler non fa arrivare un prete per l'estremunzione, per un ultimo saluto. E quindi lui riesce a liberarsi della corda che lo tiene legato e riesce a impartire a tutti quanti un saluto, una preghiera per tutti, nonostante anche lui poi debba entrare e ci entrerà dentro le cave ardiatine, ed è stato inserito nell'elenco dei martiri del XX secolo. Aldo Finzi, nato a Legnano il 20 aprile del 1891, muore appunto alle Fosse Ardeatine il 24 marzo del 44, ed è stato un militare, un dirigente sportivo e un politico. Suo padre, Emanuele, era un ricco possidente di Rivarolo Mantovano, che benché educato nella fede ebraica se ne distaccò, rimanendo un libero pensatore agnostico in materia di religione. Sposò in età avanzata una ragazza di Venezia, fervente cattolica, dalla quale ebbe 7 figli che fece battezzare ed allevò nel cattolicesimo. Aldo Finzi fu battezzato il 30 giugno del 1891, studiò a Parma ed iniziò l'attività politica nel 1913 in qualità di consigliere comunale, Abbadia Polesine. Nel 1915 si arruolò volontario nella Prima Guerra Mondiale e l'8 agosto del 1918 partecipò con D'Annunzio al celebre volo su Vienna. Dopo la Grande Guerra, nel 1918, si stabilì a Milano, dove aderì nel 1920 ai fasci di combattimento e fu eletto deputato nel 1921. Finzi partecipò alla marcia su Roma nel 1922 e in quello stesso anno fu sottosegretario agli interni e vice capo della polizia, incarico che manterrà fino all'omicidio di Giacomo Matteotti nel 1924. E qua c'è un cambio, perché Aldo Finzi era un giornalista e scriveva parecchi articoli, e in quegli anni, 22, 23, 24, parecchi articoli pesanti contro la figura di Matteotti. E durante l'ultimo discorso di Matteotti alla Camera dei Deputati il 30 maggio del 1924, Aldo Finzi è uno di quelli che lo interrompe spesse volte, e nei giorni successivi, un po' come discolparsi, Mussolini addossa la colpa dell'omicidio Matteotti ad altre persone, in primis Aldo Finzi. Aldo Finzi rimase ininterrottamente deputato del Partito Nazionale Fascista dal 21 al 29. Dopo il matrimonio con Maria Luigi Clementi, nipote del cardinale Vincenzo Vannutelli, si fece interprete della linea normalizzatrice e si impegnò nel tentativo di inglobare nel fascismo settori del mondo cattolico, della cooperazione e del sindacalismo confederale, al fine di garantire la conservazione del vecchio assetto economico e sociale. Però l'omicidio Matteotti, Finzi in quel momento era sottosegretario agli interni e venne coinvolto nelle indagini e depurato insieme ad Emilio De Bono, anche a seguito dell'atteggiamento tenuto in occasione dell'ultimo discorso alla Camera del deputato socialista. Infatti ribadisco il fatto che Finzi lo interruppe un 4-5 volte in maniera molto, molto pesante e molto critica. Per chiarire la sua posizione e difendere la propria onorabilità, scrisse un memoriale che fu consegnato al fratello Gino Finzi, che la diede in visione a parecchi testimoni, con l'intenzione di farla pervenire in mano alle opposizioni. Però il testo non venne mai trovato, poiché dopo alcuni giorni venne bruciato dallo stesso Gino Finzi per sua stessa ammissione. Nel 1928 non venne ricandidato alla Camera e così nel 1929 uscì dalla scena politica per diventare il maggiore produttore di tabacco per il Lazio. Nel 1938 ci sono le leggi razziali, lui ha un cognome tipico ebraico, lui si chiama Finzi e anche se non segue l'ebraismo ed è cattolico, però viene tenuto d'occhio. In più lui manifesta la propria opposizione ai provvedimenti per la difesa della razza e nel 1942 fu espulso definitivamente dal Partito Nazionale Fascista e così prese contatti con l'antifascismo e pensate un po', nel 1943 aderisce al movimento partigiano di Roma guidato da Carlo Andreoni, vicino al Partito Socialista che 20 anni prima tanto avversava. Arrestato nel febbraio del 1944 e portato a Regina Coeli, viene anche lui fucilato alle Ardeatine e si parlò di un suo riavvicinamento all'ebraismo negli anni 42-43. Infatti il suo nome figura tra gli ebrei caduti durante la resistenza in una lapide all'ingresso della sinagoga di Roma. Come Antonio Gallarello fu Giovanni e di Maffei Clementina, nato a San Giorgio La Molara in provincia di Benevento, falegname e banista, arrestato il 3 febbraio del 44, appartenente al Partito d'Azione, partigiano, padre di 7 figli. E la sua opera migliore probabilmente è stato crescere questi figli, tanto che silenziosamente approvò l'operato di uno di loro, del figlio Vincenzo, la cui azienda, falegnameria in Santa Croce di Gerusalemme, era divenuta un deposito d'armi e luogo di riunioni del comitato militare del partito. E nel momento del pericolo, quando per delazione gli sgherri di Caruso irruppero nel laboratorio, fece fuggire il figlio e si fece arrestare al suo posto. E così sopportò per 40 giorni le sevizie in via Tasso e poi a Regina Coeli, affrontando la morte poi alle Ardeatine. Come Pilo Albertelli, professore di filosofia, 36 anni. Il padre, deputato socialista, fu costretto a trasferirsi a Roma con la famiglia dopo un attentato da parte dei fascisti. Nel 28 il giovane fu arrestato perché aveva organizzato un'associazione di studenti cospiratori contro il regime. Tradotto nelle carceri di San Vittore a Milano, fu condannato a 5 anni di confino, poi tramutati in 3 di vigilanza speciale. Nel 1930 si laureò in lettere e filosofia all'Università di Roma, con una tesi su Platone. Si dedicò poi all'insegnamento da dissidente della patria ufficiale. Nel 1932 ottenne la cattedra a Livorno e nel 1935 fu trasferito nella capitale al liceo Umberto I. Nel 1939 ottenne la libera docenza di storia della filosofia antica all'Università di Roma. Però lasciò l'insegnamento. Insieme a Ugo La Malfa fu uno dei fondatori del Partito d'Azione, proprio a Roma, e collaborò all'Italia Libera, l'organo clandestino del gruppo romano. L'8 settembre del 43 combatté a Porta San Paolo e poi diede vita alle formazioni di Giustizia e Libertà, raccogliendo armi, munizioni, arruolando volontari, procurando documenti falsi, organizzando i primi atti di sabotaggio. Il 20 settembre in via Eleonora Duse al Parioli, assieme a Giovanni Ricci, fa saltare una mina, a Miccia Rapita, alla caserma della MVSN, e poi assume il comando della zona di San Giovanni. Ma poiché era ricercato dai tedeschi, fu trasferito dalle squadre del quartiere Ostiense Garbatella e fu incaricato di mantenere il collegamento tra tutti i capi zone e diventò membro del comitato militare romano del CVL. Il primo marzo del 44 la spia Priori, che da tempo si faceva passare per un compagno di lotta, lo consegnò ai sicari della banda fascista di Pietro Koch. Trasportato alla pensione oltremare in via Principe Amedeo, fu percosso senza esito. Quando i fascisti minacciarono di arrestare la moglie per torturarla in sua presenza, tentò di togliersi la vita lanciandosi verso la finestra semiaperta, ma fu bloccato, e cercò anche di tagliarsi le vene con il vetro dell'orologio. E trasferito a Regina Coeli con le costole rotte e il corpo maciullato, non si riusciva a reggere in piedi alle ardiatine, quindi fu costretto a trascinarsi, e quindi altri martiri lo dovettero tirare su e portare all'interno delle ardiatine per farsi ammazzare. Martiri come Placido Martini, avvocato di 64 anni. Fu volontario nella Prima Guerra Mondiale, combatté nel corpo di spedizione italiana in Francia. Durante gli anni della dittatura fascista, per il suo antifascismo di ispirazione massonica, venne confinato a Ponza. Tornato a Roma, nei 45 giorni del governo Badoglio, divenne capo delegato della massoneria italiana di Palazzo Giustiniani e di quella scozzese di rito antico. Partecipò alla guerra di liberazione nelle file della resistenza romana. Catturato dalla SS il 22 gennaio del 44, in seguito a delazione, fu lungamente torturato nelle prigioni di Via Tasso e infine, anche lui, come gli altri, fucilato alle fosse ardeatine. E perché la massoneria era contro il fascismo, e infatti ci sono 18 massoni che sono morti alle ardeatine. Martiri come Luigi Pierantoni. Medico, arrestato perché facente parte del gruppo d'azione. E lui recluta tantissimi volontari, anche il suo vicino di casa, Raffaele Zicconi, anche lui morto alle Ardiatine. E Pierantoni è arrestato in via Tasso e, dato che è medico, riesce a curare alcuni detenuti. Aprono la cella e lo trascinano via perché fa parte della lista di quelli che andranno alle Ardiatine, ma lui in quel momento ha una siringa in mano e fa di tutto per almeno usarla, questa siringa, ma non gli danno il tempo di usarla. Via Raus. È testimone di questo fatto una detenuta che vede la scena. In via Tasso le donne, a differenza degli uomini, avevano la possibilità di lavare le gavette che utilizzavano per mangiare. E così, per questo motivo, questa donna è fuori dalla sua cella, perché deve lavare tutte le gavette delle sue compagne di prigionia. E così si attarda, cerca di lavarle molto lentamente, perché capisce che sta succedendo qualcosa in quel momento. Vuol vedere cosa sta succedendo. C'è un gran via vai, tantissime guardie naziste, ma anche tantissimi fascisti che prendono prigionieri e li portano via. C'è confusione. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ma a un certo punto la costringono ad entrare in cella. E allora cerca di ascoltare, di guardare dallo spioncino, e sente i camion che stanno andando via con il loro carico umano. Perché quando manca la vista, allora migliora l'udito, l'olfatto. E così, quando manca la libertà, ogni piccolo movimento, rumore, parola. Grazie a Radio Onda Rossa ho potuto leggere alcune biografie, brevi biografie. Ne ho lette 11 su 335 martiri. E prima di venire qua praticamente li ho estratti a sorte. E il tempo a disposizione è quello che è. Se io avessi raccontato un minuto per ogni martire, sarei dovuto restare qua 5 ore e 35 minuti. Non è possibile, e così... Niente, è stato il caso che io abbia parlato di queste 11 persone. E così, sfortunatamente, in questa narrazione non è entrato Sisigno Mocci e la sua vita avventurosa. Per sfortuna non è entrato Giovanni Frignani, il carabiniere. Dopo l'8 settembre del 43 l'arma dei carabinieri fu sciolta da Mussolini, perché i carabinieri lo arrestarono il 25 luglio dopo il Gran Consiglio, e chi gli mise le manette fu proprio Giovanni Frignani, morto anche lui alle Ardiatine. E sfortunatamente non posso parlare, non so, di Salvatore Canalis, un letterato, una persona che scrisse un dizionario della lingua italiana. E non posso raccontare tantissimi aneddoti, però uno forse ho il tempo di raccontarlo. Io sono genovese e tra i martiri c'è un genovese che si chiama Fiorenzo Semini ed è un militare, si trova a Roma dopo l'8 settembre del 43 molto sbandato e non sa assolutamente cosa fare. E a Roma ci sono tantissimi militari sbandati che ad un certo punto poi entrano in clandestinità e partecipano all'attività contro i nazifascisti. Uno di questi è Agostino Napoleone. Agostino Napoleone, militare, un marinaio, sardo. E cosa accomuna queste due persone, Agostino Napoleone e Fiorenzo Semini, che non si conoscono, ma si conoscono proprio nel piazzale delle Ardeatine? Perché Agostino Napoleone è sardo, ma è nato in un isolotto della Sardegna, Carloforte. E Carloforte nel Settecento fu occupata da dei marinai genovesi, e ancora adesso a Carloforte si parla il dialetto genovese, un dialetto molto antico che è rimasto intatto dal Settecento e quindi addirittura diverso dal genovese che si parla adesso nella mia città. E si incontrano in mezzo a quella bolgia, si vedono, si conoscono e si parlano, e io penso che probabilmente entrando alle Ardeatine insieme, perché poi il professor Attilio Ascarelli li trova attaccati insieme, mano nella mano. E io penso che prima della scarica che li ha uccisi si siano scambiati qualche parola in dialetto genovese. E adesso mentre parlo, un po' a ruota libera, mi viene in mente un altro piccolo aneddoto. Padre e figlio, Cibei. E Cibei il piccolo aveva 15 anni quando è stato portato alle Ardeatine. E il professor Ascarelli riesce a riconoscere, a dare un nome, proprio perché loro sono proprio uniti, abbracciati. E quando appunto i nazisti li ammazzano insieme, loro proprio abbracciati nel minuto finale della loro vita. Preso a nerbate sotto la pianta dei piedi, nonché varie scudisciate in parti molle e cazzotti di vario genere, ma lui risponde con un pernacchione. Lo trovai appoggiato al muro col viso sanguinante per i pugni e le frustate ricevute. 8 o 10 uomini erano intorno a lui e ognuno sfogava su di lui il suo istinto bestiale. Chi aveva in mano un grosso pallone che gli batteva sullo stomaco e sul ventre, chi gli conficcava lunghissimi spilli nelle carni e sotto le unghie. Tenuto per 18 giorni con le mani legate dietro la schiena. Deve giacere bocconi per evitare che il peso del suo corpo ricada in modo insopportabile sulle mani, tumefatte e gonfie. Il difetto di circolazione ha provocato perfino sul suo volto gonfiori e rose di sangue. Attorno ai polsi un solco putrido prodotto dalla corda. Lei si immagina quando sono scesi in questo piazzale, hanno visto questa cava, quegli occhi com'erano. Secondo lei, com'erano questi occhi? Dove guardavano? Io penso non vedevano niente. Io credo che non vedevano più niente, perché tu vedi, le persone adulte diventano come bambini in quel momento. quello che a me fa rabbia. Io penso che mio padre in quel momento chissà com'era diventato. Bambino, pauroso, impaurito. Chissà, forse come un verme che tremava, che aveva paura. Una pecora vicino a quei lupi. Avevano i capelli irti e molti erano incanutiti nel frangente per le perdute speranze, assaliti dal terrore o colti da improvvisa pazzia. Io so che quando mio marito entrò in via Tasso aveva i suoi denti. Quando è uscito si è fatto la dentiera sopra e sotto. Qualcuno gliel'ha tolti senza anestesia. Gli occhi erano rimasti lesi. Il vento, una luce abbagliante, subito si iniettavano di sangue, li bruciavano. Per diversi anni bisognava mettere in fondo alle scarpe delle cose molto morbide, perché le piante dei piedi gliele avevano bruciate. Tagliate. E mi ricordo la prima volta che abbiamo dormito a casa. C'è un lume Liberty appeso al soffitto in camera da letto, una palla tonda che non fa nemmeno molta luce. Lui entrò in letto prima di me e come lui entrò in letto lui mi disse: spegni via Tasso. Questo è quello che resta di mio padre, un dente. Un dente rovinato da una parte perché mio padre acciocca una noce con questo dente qua. E mia madre riconobbe il cadavere da questo dente che è stato acciaccato da una parte.